Sin dalle prime puntate del nostro format ci siamo imbattuti in una strana tendenza. Il gioco, la sua storia, le sue regole e tutte le altre riflessioni a esso inerenti sembrano riguardare soltanto un pubblico molto ristretto e molto specializzato. Aleggia una certa indifferenza nei confronti dell'argomento, che suscita qualche dubbio, come se le persone non avessero giocato nella loro infanzia, o abbiano perso l'affetto o l'amore per i giochi che hanno giocato da bambini e per i sentimenti e le esperienze che il gioco loro ha trasmesso. In questo contesto strano, chi è che si pone a difesa della cultura del gioco, della difesa dei valori, degli strumenti e delle manifestazioni del gioco nella vita quotidiana? A Torino esiste una realtà a livello comunale che svolge un servizio particolare e molto articolato in questo senso, molto apprezzato a livello europeo ma dimenticato a livello locale. Radio 110 presenta Bim Bum Bale Giù, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Benvenuti alla 15ª puntata di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, su 110 Web Radio, la radio dell'Università di Torino. Siamo arrivati agli sgoccioli della nostra trasmissione e al momento delle conclusioni. Come avete sentito dall'introduzione, durante la realizzazione di questo programma abbiamo incontrato uno strano tipo di diffidenza nei confronti del gioco, un approccio spesso scettico e distaccato che non ha potuto non colpirci. Perché parlare di un gioco giapponese indiano dovrebbe suscitare perplessità o scetticismo? Cosa c'è di male? Cos'è il gioco che non va rispetto a una qualsiasi altra pratica umana? Non è forse il gioco uno degli aspetti tra i più condivisi in tutto il mondo? Non è forse che da bambini tutti noi abbiamo giocato e abbiamo desiderato giocare? Abbiamo litigato pur di giocare di più? Abbiamo pianto? Ci siamo offesi di fronte al divieto del gioco? Dov'è che si perde il nostro amore verso il gioco quando cresciamo? Qual è l'approccio giusto per parlare di gioco a un pubblico dell'età dai 20 anni in su? Effettivamente ci sono cose che non abbiamo affrontato nella trasmissione e onestamente non abbiamo capito. Tuttavia abbiamo scoperto che questo tipo di atteggiamento non è di tutti, anzi, esiste un luogo a Torino, finanziato dal comune, dove si concentrano tutti gli sforzi rivolti alla conoscenza e alla divulgazione del mondo dei giochi a un pubblico che coinvolge tanto i bambini quanto gli adulti. Si chiama Centro per la Cultura Ludica e si occupa di organizzare giornate dedicate al gioco, collabora con le scuole, organizza laboratori e mostre. Abbiamo parlato con Maria Carla Rizzolo, responsabile pedagogica del centro, anzi dei centri. Abbiamo cominciato chiedendole cosa sono questi centri e quali sono le attività che organizzano. Inoltre abbiamo chiesto loro cosa si intende per cultura ludica nel secondo spezzone dell'intervista. Allora, intanto hai detto bene, centri, perché il Centro per la Cultura Ludica è, diciamo, il centro di riferimento principale, ma poi intorno ruotano i centri, gli altri centri di cultura ludica, che sono invece le ludoteche, i punti gioco e gli altri tipi di servizio, le sale giochi in ospedale, eccetera. Quindi direi che per questa occasione potremmo cominciare dal Centro per la Cultura Ludica, che per noi è il luogo della cultura del gioco, in cui si può incontrare tutto quello che attiene al mondo ludico, non solo riferito ai bambini, ma anche riferito agli adulti. Bisogna valorizzare come cultura ludica tutte le forme del gioco e quindi il gioco dei bambini, il gioco dei ragazzi, ma come dicevo anche il gioco degli adulti, anche la possibilità di trasferire le competenze del gioco degli adulti attraverso momenti di incontro e di scambio con i ragazzi e con i bambini. Quello che una volta si faceva e si chiamava incontro tra le generazioni sul gioco è quello che, diciamo, oggi è più difficile. Quindi la cultura ludica è quella occasione che ci consente di raccogliere tutto ciò che riguarda il gioco e la trasmissione del gioco. Bim bum bale giù! Il progetto dei Centri per la Cultura Ludica si avvia con la collaborazione tra il Comitato Italiano Gioco Infantile di Torino e il Centro Internazionale di Documentazione Ludoteche di Firenze. A cavallo tra gli anni 80 e 90, l'amministrazione comunale di Torino decide di avviare un programma straordinario che prevede l'apertura nel 1981 delle ludoteche L'Aquilone in zona San Salvario Valentino e San Giocondo in zona Vallette Lucento e di altre due ludoteche in seguito all'esperienza delle Biennali del Gioco di Torino tra il 1988 e il 1992. L'inaugurazione creazione del gruppo Gioco Ospedale nel 1984, uno dei primi servizi a livello nazionale nati con il preciso compito di offrire ai bambini relazioni ed esperienze ludiche in continuità con la vita fuori dall'ospedale, servizio esteso tempo dopo anche all'ospedale Martini. L'allestimento del Centro per la Cultura Ludica nel 1987, l'avvio di due punti gioco, spazi da dedicare al gioco senza la presenza dei giocattoli industriali, una sfida controcorrente per sostenere e stimolare la creatività del giocattolo autocostruito. Nel 1996 si arriva alla definizione di un progetto gioco che riunisce tutti i servizi comunali dedicati al gioco, raccogliendo e rilanciando esperienze e progettualità già in corso. Dall'ottobre del 1999 è iniziata la collaborazione con associazioni e cooperative educative per potenziare il servizio. Nel 2001 la città di Torino concorre per costruire l'Associazione delle Città in Gioco e nel 2006 apre una nuova ludoteca in pieno centro. Nel 2008 viene assegnato al Centro per la Cultura Ludica lo SMIG, Spazio Mostra in Gioco, un nuovo spazio attrezzato per raccogliere esposizioni tematiche temporanee, finalizzate a sostenere sempre nuovi approfondimenti ludici. Abbiamo chiesto a Maria Carla Rizzolo qual è il rapporto dei centri con la città di Torino, quali sono le attività legate alla città e cosa ci si aspetterebbe in più dal comune in questo periodo. Intanto diciamo che nessuno è mai profeta in patria e quindi questa è già una prima considerazione. In genere le cose che siano più vicine sono quelle che si scoprono sempre più tardi e questa è un po' la dimensione e la storia del Centro della Cultura Ludica, che ha comunque un riconoscimento a livello nazionale e una maggiore difficoltà a farsi riconoscere e conoscere dalle famiglie e dai bambini che abitano la città. Diciamo che il rapporto con la città dal punto di vista dell'educazione, quindi il rapporto con le scuole, è un ottimo rapporto. Direi che ormai, come dire, le scuole del territorio cittadino e anche provinciale ci conoscono e insomma ci apprezzano. Siamo in una situazione in cui la città come ente locale si è fatta carico di mantenere, di conservare, di promuovere l'attività del gioco e conseguentemente di sostenere un centro per la cultura ludica e 5 ludoteche, 2 punti gioco, quindi una rete sul territorio cittadino di gioco che è particolarmente significativa. Credo che bisogna sempre di più però trovare occasioni come questa per parlarne ai giovani, per parlarne alle famiglie, per parlarne in tutte le occasioni in cui c'è modo di fare comunicazione per spiegare che il centro è a disposizione e che quindi le famiglie che vogliono venire a visitare il centro il venerdì pomeriggio lo trovano disponibile, i ragazzi che vogliono venire a vedere cosa c'è in via Fiesole 15 possono venire. La collocazione, come dicevi tu, non proprio strategica dal punto di vista della funzionalità, perché è una collocazione più periferica, è anche però una risposta della città all'idea di valorizzare le periferie. Cioè, se noi continuiamo a mettere tutto ciò che ha una certa rilevanza anche in termini culturali e di ricerca all'interno di una situazione troppo centrale della città, di fatto svuotiamo di un contenuto culturale le periferie. Il grosso lavoro che ha fatto la città di Torino in questi anni è anche quello di invece investire e lavorare sulle periferie perché continuino a mantenere e a produrre una qualità culturale a disposizione di chi è più vicino in un certo territorio. E questo credo sia un'ottima, come dire, un'ottima scelta, al di là poi che come tutte le scelte ha alcune controindicazioni che sono fatto che probabilmente è più disagevole raggiungere questo centro per alcuni che abitano nella zona sud della città, lo è molto di più per quelli che abitano nella zona nord, però insomma questo è un po' un qualcosa che man mano potrà essere migliorato. Bim bum bale giù! Quello che mi piaceva ancora dire su questa cosa è che come dire, l'impegno della città non si chiude, non si ferma solo nelle, come dire, nelle azioni e nelle attività del Centro per la Cultura Ludica. Noi per esempio portiamo il 29 di maggio in Piazza San Carlo una grande festa che coinvolgerà Piazza San Carlo, Piazza Castello e arriverà fino ai Giardini Reali per festeggiare insieme a tutti i cittadini, le famiglie, i bambini, gli adulti, tutti quelli che vorranno, la Giornata Mondiale del Gioco. Quindi c'è un appuntamento annuale che capita sempre l'ultimo fine settimana di maggio che ci vede presenti in piazza con delle iniziative di gioco che sono a disposizione di tutta la città. In più le collaborazioni continue anche interassessorili che noi continuiamo a, come dire, a sviluppare, a mantenere sollecitati anche dai colleghi di altri settori, ci consentiranno sempre di più di far crescere anche un'educazione dei cittadini nei confronti del gioco e fare in modo che prima o poi invece di chiudere a recinto le aree gioco per i bambini, si chiudano, come dire, anzi in realtà non si chiudono, ma si aprano delle dimensioni culturali diverse da parte di chi porta i cani ai giardini e non lascerebbe in questo caso più delle code poco piacevoli, o chi usa i giardini ma non li rispetta e quindi crea delle situazioni poi di poco piacere per poterci giocare, insomma. Quindi c'è un lavoro molto intenso su più fronti, sia di educazione alla cultura del gioco, perché il gioco può esistere se ci sono anche degli spazi che lo possono accogliere. Certo. E se noi gli spazi li insozziamo tutti, non possiamo più utilizzarli per giocare. Ma l'intento è quello di fare in modo che man mano i cittadini colgano questa dimensione e riescano sempre di più ad essere rispettosi degli spazi per loro stessi, perché chiaramente più uno spazio è utilizzabile e giocabile, più è piacevole stare coi propri figli, coi nipoti, coi fratelli, con chi, insomma, gli amici, e andare a giocare in un parco. In bomba! Questo è Bim Bum Bale Giù su 110 Web Radio. Parliamo dei centri per la cultura ludica di Torino in compagnia di Maria Carla Rizzolo, responsabile del nucleo pedagogico. Ma quali sono i servizi offerti da questi centri? Innanzitutto le ludoteche. In ludoteca si promuove il gioco dimostrando che si può giocare con tutto. La dimensione ludica acquista centralità nelle esperienze educative di socializzazione e incontro culturale. I giocattoli si possono scambiare, riparare, costruire e ricostruire nello spazio laboratorio. L'impegno costante è quello di stimolare la creatività, di dare spazio alla conoscenza dei materiali e degli strumenti, di proporre modi diversi per trasformare gli oggetti in strumenti giocattolo, in contraddizione con la logica consumistica dell'usa e getta. La ludoteca è anche il luogo di formazione per gli adulti. Si propongono specifici corsi di aggiornamento e di formazione, rivolti agli educatori e agli insegnanti, così come tirocini per giovani educatori e studenti universitari. I punti gioco invece sono pensati per la diffusione di quei giochi del passato che, per le loro caratteristiche ludiche di movimento e di relazione positiva tra i partecipanti, suscitano ancora un grande interesse anche nei bambini di oggi. Uno degli obiettivi dei punti gioco è quello di recuperare in modo attivo il rapporto con la città come ambiente di vita, di mettere in pratica l'autonomia del fare a partire dal gioco, inteso come esperienza simbolica di conoscenza e integrazione del mondo. Non solo si valorizza molto il gioco all'aperto, ma per rendere attivo il laboratorio si stimola la raccolta e la catalogazione dei materiali di recupero urbano più diversi. Il laboratorio diventa una fucina di idee da sperimentare, il luogo per progettare prototipi, verificarne il funzionamento, correggere gli errori e mettere a punto le variazioni. Il laboratorio diventa luogo privilegiato di incontro tra bambini e adulti sempre più desiderosi di trasmettere saperi, ma anche di acquistare competenze nuove e di mettersi alla prova. Sospendiamo il discorso sui servizi e riprendiamo a parlare con Maria Carla Rizzolo dei Centri di Cultura Ludica di Torino. Approfondiamo il discorso sui concetti alla base delle attività dei centri in rapporto ai bambini e anche agli adulti. Si può e si deve insegnare attraverso il gioco, perché il gioco è uno strumento formidabile che consente di apprendere in una modalità, diciamo per capirci, non formale, che è una modalità di molto piacevolezza, quindi di piacevolezza, di gratuità, di libertà, e in quella condizione si apprende molto più serenamente, molto più radicalmente. Però il gioco va anche insegnato, perché quello che si diceva, la cultura ludica è fatta di adulti anche che giocano e di bambini che imparano a giocare, e quindi nelle nostre esperienze di attività, nelle nostre proposte di attività, facciamo tutte e due le cose: utilizziamo il gioco e lo mettiamo a disposizione molto spesso degli insegnanti e delle scuole come strumento per arrivare ad apprendimenti di tipo multidisciplinare, ma insegniamo anche differenti tipologie di gioco, dal gioco di azione, il gioco di movimento, il gioco di percorso, i giochi con giocattoli di tipo diverso da quelli di carattere più tradizionale storico, quindi dalle biglie alla palla, ai birilli, ai giochi invece un po' più contemporanei. Insomma, c'è tutto un mondo ludico che può essere anche presentato e diventare quindi un patrimonio più allargato di conoscenza di quello che è il gioco. Quindi parliamo comunque di una divulgazione rispetto al gioco stesso, nel senso, noi giochiamo ma il più delle volte siamo inconsapevoli di che tipo di gioco è, certo, e di come funziona, di che storia ha avuto. Quindi, insomma, far conoscere il gioco anche per la sua storia e per tutte le sue varietà, tutte le sue differenze tra un gioco e l'altro, mi sembra di aver capito. Certamente. Bim bum bale! giù! Adesso parliamo degli adulti. Si parla di insegnare il gioco anche agli adulti. Io direi di reinsegnare, perché gli adulti, comunque essendo stati bambini, avranno sicuramente giocato almeno una volta nella vita. Quali sono gli aspetti del gioco che gli adulti, crescendo, diventando adulti, iniziano a trascurare? E cosa si perdono nella loro esperienza quotidiana, proprio di persone, nel trascurare questi tipi di aspetti? Direi che la cosa principale è che gli adulti perdono quello che è tipico dei bambini, e cioè la libertà e la gratuità del gioco. Il gioco è libero perché si dice, ed è una realtà di fatto, non puoi dire a qualcuno gioca e obbligarlo a giocare. Quindi questa dimensione di libertà e di scelta, che è patrimonio dell'uomo, non solo del bambino, è qualcosa che se tu non giochi da adulto perdi. Anche perché le dimensioni del gioco possibile per gli adulti sono veramente moltissime e sono anche diverse da quelle dei bambini. Non è che vuol dire che dobbiamo giocare bambinizzando il nostro sì, certo, intervento ludico. E poi l'altro aspetto estremamente importante è la gratuità del gioco. Gli adulti oggi praticamente tutto quello che ricevono è organizzato, sistematizzato e molto spesso pagato. Invece l'esperienza del gioco è un'esperienza di piacere per la scelta libera e gratuita. Non è qualcosa che produce un effetto anche di tipo economico o di scambio o di che ne vogliamo dire. Quindi in genere gli adulti oggi tendono a dirigersi verso un tipo di gioco che è quello organizzato e proposto dagli animatori dei villaggi turistici, piuttosto che delle dimensioni sportive molto sistematizzate. Allora, credo che una parte di quello che è il piacere del divertirsi attraverso il gioco in una dimensione gratuita e libera sia una parte veramente importante, che è un peccato che molti adulti di oggi si perdano. Devo dire che non tutti, per fortuna, ce ne sono molti che riescono ancora a provare questa dimensione di gioco e quindi provare piacere e non necessariamente avere questa pressione dal punto di vista sia organizzativo che di costi, che invece per altri diventa importante. Bim bum bale giù! Ricominciamo a parlare dei servizi dei centri di cultura ludica per darvi un'idea dell'ampiezza delle attività e degli interessi dei centri. Uno spazio importante è quello del Centro per la Cultura Ludica, intitolato a Walter Ferrarotti, nato nel 1988, che si contraddistingue nel panorama italiano per la pluralità delle iniziative proposte, in qualità di spazio espositivo, ma anche di luogo di ricerca, di reinvenzione e di gioco. Uno degli obiettivi di fondo degli ideatori del centro fu quello di valorizzare l'azione dei diversi operatori, pubblici o privati, che lavoravano con e per l'infanzia sul tema del gioco. Lo si definisce museo laboratorio e, se per un verso si avvicina ai numerosi musei del giocattolo esistenti in Europa, per altri apre prospettive di scoperte e di creazioni insospettate in virtù della sua struttura e varietà di servizi. Oggi il Centro di Cultura Ludica è punto di riferimento per coloro che si occupano di gioco e giocattoli, non solo come collettore di esperienze, ma anche come punto di partenza per nuove attività, per rielaborazioni e approfondimenti. Rappresenta un esempio concreto di ciò che significa cultura ludica, percorso che racconta il gioco attraverso la storia e le diverse culture, corsi di formazione per saperne di più su giochi e giocattoli, materiali per costruire e inventare, mostre tematiche temporanee e permanenti, spazi di incontro per collezionisti e collezioni, inventori e prototipi, documenti e audiovisivi per la ricerca e l'informazione, e spazi di animazione. Nel 2008 l'assegnazione dello spazio SMIG di via Fossano ha dato maggior respiro alle attività didattiche collegate alle collezioni presenti al centro, consentendo di ampliare l'offerta di attività per le scuole e per le famiglie, e di recente di ospitare una mostra con circa 250 giocattoli provenienti dalle province marocchine di Agadir e Tisnit e dalla provincia Tantan del Sahara Occidentale. Giocattoli costruiti con materiali di scarto e che pure, nella loro semplicità, sono veicoli molto significativi di conoscenza, confronto e scambio interculturale. L'ultimo dei servizi di Centro di Cultura Ludica è il gruppo Gioco Ospedale. L'obiettivo principale di questo gruppo è l'attenzione al bambino malato e alla sua famiglia. Il servizio nasce e si sviluppa presso due realtà ospedaliere torinesi: l'azienda ospedaliera Sant'Anna Ospedale Infantile Regina Margherita e il presidio ospedaliero Martini. Il servizio è costituito da un gruppo di animatrici con formazione specifica e presenza quotidiana nei due ospedali, che attraverso il gioco contribuiscono a ristabilire un'atmosfera più serena e a mantenere una possibile continuità di relazioni positive. Specifici percorsi di accompagnamento sono stati pensati per migliorare la qualità della vita ospedaliera, l'educazione e la comunicazione verso il malato e la famiglia, per esempio per accompagnare lungo la difficile esperienza dell'intervento chirurgico tanto i bambini quanto i loro genitori, senza banalizzare l'informazione su tempi, ritmi e procedure, e aiutando i genitori ad affrontare la comunicazione con i figli su quello che succede loro in ospedale. Torniamo alla nostra intervista con Maria Carla Rizzolo, che ci parlerà delle attività museali del centro, del valore della trasmissione ludica e del messaggio che gli oggetti del passato portano con sé. Dopo l'intervista, spazio a Luca Cerrato e alla rubrica del Fogliaccio. Prima di tutto ci danno una dimensione di quanto la storia del gioco ci dica che il gioco è esistito da sempre, che fa parte dell'uomo e che, come dire, ritrovare alcuni giocattoli, alcuni oggetti ludici nelle tombe degli antichi greci, piuttosto che in quella degli egiziani, piuttosto che il sapere che dal gioco hanno origine poi le Olimpiadi, che dal gioco, come dire, il circo dei giochi era un patrimonio del mondo dell'antica Roma, che nel Medioevo c'erano le giostre, che erano sempre dei momenti di confronto ludico-competitivo, beh, allora questo ci dice che in fondo il gioco ha accompagnato l'esperienza culturale storica di evoluzione dell'uomo. Quello che è, come dire, sorprendente è che c'è un'attualità incredibile in molti dei giochi dell'antichità rispetto ai giochi di oggi. Tutta una serie di giochi da tavolo, giochi di percorso, giochi logici hanno una radice storica in quelli che erano i giochi del passato. Giochi con la palla hanno una sorprendente somiglianza e vicinanza con quelli che erano i giochi del passato. Quindi questo ci fa anche dire che, insomma, pensiamo oggi di essere dei grandi inventori di giochi, ma di fatto, come dire, abbiamo molto e prendiamo molto da quella che è l'evoluzione storica. Dopodiché c'è un gioco per tutti i tempi, quindi oggi spesso ci lamentiamo molto della sovraesposizione ai giochi fatti o utilizzati attraverso le macchine, quindi i computer, principalmente insomma i videogiochi, i giochi con computer, però c'è da dire che questo è, come dire, una lettura contemporanea del gioco. Oggi c'è uno sviluppo tecnologico altissimo e quindi di conseguenza credo che una grande dimensione di gioco debba essere riconosciuta all'aspetto del gioco attraverso il computer e quindi del videogioco. Ecco, tutto sì. Sta poi a creare una proporzione coerente, perché l'uomo non è solo nel rapporto con la macchina, è anche nel rapporto col proprio corpo, nel rapporto con gli altri individui, quindi servono anche, come dire, integrare con altri giochi più sociali, con altri giochi che legano il movimento e lo spazio. Ecco, sì. E mi permetto di fare una piccola deviazione dal percorso per fare due considerazioni rispetto a quello che abbiamo detto. E la prima, rispetto alla storia e al gioco per la storia, mi viene anche in mente che non è un caso se negli ultimi 5, 6, 7 anni sia tornato così in voga il gioco d'azzardo, e che è un gioco che, nel senso, la cui origine risale veramente alla notte dei tempi, e che molti hanno denunciato durante l'arco della storia, guarda caso proprio in periodi di particolare decadenza o di difficoltà a livello socio-economico, eccetera eccetera. Quindi c'è un collegamento tra gioco e periodo storico che non è un elemento trascurabile, anzi è molto importante e molto significativo. La seconda osservazione che mi permetto di fare è che il centro ludico mi pare abbia un atteggiamento molto scevro di stereotipi rispetto alle novità ludiche, perché si sa che il computer è diventato un oggetto che, diciamo così, un oggetto pieno di controversie, nel senso che si è discusso sui limiti che impone la socialità, sui limiti che impone anche il fisico, su tutte le difficoltà che produce il computer, ma è anche vero che d'altro canto il videogioco è uno strumento ludico molto importante che sviluppa determinate caratteristiche, e quindi sembra sempre che ci sia una battaglia tra i pro e i contro, ed è bello che alla fine un centro per la cultura ludica affronti l'argomento senza particolari prese di posizioni, nel senso ci vuole equilibrio tra i due aspetti. Esattamente questo, non è una questione di demonizzare un determinato strumento, uno strumento è uno strumento, quindi come tale va assunto e va utilizzato, ragion per cui si può considerarne gli effetti positivi e si deve tenerne in conto gli effetti più problematici. Allora è chiaro che qualunque situazione che costringa un bambino o un ragazzo a stare per molto tempo seduto di fronte a uno schermo, che sia il televisore, che sia lo schermo del computer, ha delle controindicazioni, perché ai bambini e ai ragazzi, come dicevamo prima, anche agli adulti, serve muovere le gambe, serve muovere il corpo, serve esplorare lo spazio da tutti i punti di vista. Ciò non di meno, siccome lo strumento del computer è uno strumento contemporaneo di estrema importanza, il videogioco è un elemento che ci aiuta e ci consente di utilizzare al meglio questo tipo di strumento. In più vorrei spezzare una lancia su questa idea di socialità. Noi abbiamo un laboratorio di videogiochi al Centro per la Cultura Ludica e ci rendiamo conto che se i ragazzini sono messi in gruppo davanti allo strumento, non è affatto uno strumento di poca socialità, anzi è uno strumento che consente ai ragazzini di misurarsi anche dal punto di vista del linguaggio: muoviti a destra, muoviti a sinistra, vai più in alto, sposta il mouse. Allora è tutta una dichiarazione logica rispetto alla spazialità che è estremamente importante, che non è assolutamente scontata e sulla quale, come dire, il computer in questo caso svolge un'ottima funzione educativa. Bim Bum Bale Giù presenta la rubrica del fogliaccio a cura di Luca Cerrato. Carte, non solo quando fuori piove. Quelle sottili strisce di carta su cui sono disegnati re, regine e fanti erano e sono ancora una fonte immensa di giochi. Chi non ha almeno una volta nella vita giocato con essi? Tra i giochi più popolari in Italia ricordiamo il 3-7, lo scopone scientifico, scala 40, pinnacolo e la briscola. Anche gli stessi mazzi di carte variano da regione a regione. Storicamente sembra che tutto iniziò qualche centinaio di anni fa in Cina con l'invenzione della carta moneta, dopodiché il passatempo si è diffuso in tutto il mondo generando migliaia di giochi ed alcuni di essi sono considerati dei veri e propri sport come il bridge. Oggigiorno nei moderni giochi da tavola i quattro semi tradizionali, cuori, quadri, picche e fiori, sono stati sostituiti da particolari simboli ed intriganti disegni. Adesso cercherò di presentarvi dei giochi che fanno uso solo di mazzi di carte, trascurando molti giochi da tavola che utilizzano le carte insieme a tabelloni, dadi e pedine. Nella enorme produzione di giochi di carte, in questa rubrica ne presenterò alcuni, lasciandone fuori molti altri, comunque meritevoli di essere giocati. Incomincio con un gioco culinario. Mamma mia, i giocatori devono cercare di creare più pizze possibili. Il mazzo è composto da un certo numero di carte ingredienti, salame, olive, peperoni e ananas, ed un mazzo pizze. Durante il gioco, i giocatori scartano in un mazzo comune gli ingredienti e quando credono che ci siano gli ingredienti sufficienti per fare una determinata pizza, scartano una carta pizza. Quando il mazzo ingredienti è esaurito, si passa alla fase di verifica, cioè se le pizze giocate sono state realizzate. I fagioli sono protagonisti in bonanza. I giocatori commerceranno le loro carte fagiolo cercando di far soldi. Il mazzo è composto da una serie di tipi di fagioli. Importante per l'andamento del gioco è il fagiolometro, che fa guadagnare soldi. Se volete volare e combattere con aerei della prima guerra mondiale, non dovete perdervi Wing of War. Ogni giocatore ha la sua carta aereo che può compiere determinate acrobazie sul campo di battaglia coordinandosi con i suoi compagni d'arma. Le manovre sono scelte da uno speciale mazzo di carte dedicato ad un preciso aereo. Senza alcun dubbio il film che può ricordare Bang è Mezzogiorno di fuoco. L'ambientazione è il vecchio Far West, un gioco di interpretazione e di bluff. Ogni giocatore interpreta un personaggio che può essere lo sceriffo, il suo vice, il fuorilegge o i fuorilegge, dipende dal numero di giocatori, e il rinnegato. Tutti i ruoli sono segreti, eccetto lo sceriffo. I giocatori si sparano a vicenda giocando carte bank, alcune carte servono per schivare colpi, guarire dalle ferite, altre riportano particolari azioni. Quando un giocatore finisce i suoi punti vita è morto. Lo sceriffo e i suoi vice vincono se fanno fuori tutti i fuorilegge e il rinnegato. I fuorilegge vincono se eliminano lo sceriffo e i suoi aiutanti. Il rinnegato trionfa se rimane l'ultimo personaggio in gioco. Bim bum bam! Siamo giunti alla conclusione della 15ª puntata di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, su 110 Web Radio. Abbiamo parlato dei centri di cultura ludica di Torino con la responsabile del nucleo pedagogico, Maria Carla Rizzolo, la quale ci ha spiegato qual è il senso e gli obiettivi dell'attività del centro, e noi dal canto nostro vi abbiamo raccontato la storia del centro e qual è la sua offerta di servizi. È importante che una struttura come il centro continui a sopravvivere e continui a svolgere il suo lavoro, a macinare gioco e ad accogliere le novità, integrandole con il passato, interpretandole, sfruttandole per continuare a trasmettere il valore della gratuità e della creatività e della socializzazione del gioco. Questo in un mondo in cui il gioco è sì un aspetto importante, che ciascun bambino rivendica a sé e che ciascun genitore riconosce i bambini, ma che al di fuori del contesto familiare smette di essere considerato, viene preso forse un po' alla leggera, forse dimenticando come il gioco abbia attivato nell'infanzia di ciascuno sentimenti e predisposizioni e come abbia caratterizzato una fetta importante e irripetibile della nostra esistenza. Il tempo a nostra disposizione è finito. finisce qui. Ringraziamo Maria Carla Rizzolo per la gentile collaborazione, Luca Cerrato per la rubrica del fogliaccio e Carlo alla parte tecnica. Ricordiamo i contatti: 110webradio@unito.it, il nostro indirizzo email, e cosigiocalmondo.blogspot.com, il nostro blog. Abbiamo anche una pagina di Facebook. Invece, per quanto riguarda i centri di cultura ludica, ulteriori informazioni potete trovarle sul sito www.comune.torino.it/gioco. Io sono Francesco, l'appuntamento per la 16ª puntata di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, è per mercoledì prossimo, sempre alle 20, sempre su 110 Web Radio. Buonasera. Avete ascoltato? Bim Bum Bale Giù! Un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim bum vale giù, così gioca il mondo.